Buongiorno. Buongiorno signorina. Grazie Mauro per le signorine. Affacciati alla finestra. Bella mia. Bella mia. Ta-tan. Eccomi, eccomi. Sentito queste due pazze. Molto carine. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e anche la sua amica carissima, siete bravissime. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mio padre si ferma a tutte le siepi, strappa foglie e arriva qualche volta alle magnolie, dopo averne studiato con cura i nervi, le vene segrete. Ma oggi, sulla foglia più bella, gli ripeto che sua madre è morta, che lui non può più farla piangere di gioia, e poi gli corro dietro mentre urla: mi prendi per il naso, vuoi farmi prigioniero, le mani disperate sul cancello della casa dai cani di pietra perduta con la guerra. Scusa, mi fa, e si volta, scusa per la cosa di prima, la faccia d'improvviso distesa, l'agonia delle sinapsi ben nascosta. Con queste parole un familiare racconta la sua esperienza di figlio di un uomo malato di Alzheimer. In linea con noi Alberto Bertoni, l'autore di questi versi che avete ascoltato dalla sua stessa voce. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professor Bertoni, lo chiamo professore perché è docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna, ma è anche un poeta, autore fra i tanti libri anche di ricordi di Alzheimer. Professor Bertoni, qual è la sua storia? Suo padre Gilberto è mancato nel 2006, era malato di Alzheimer. Malato di Alzheimer, diagnosticato nel 2001, ma io avevo sospettato la sua malattia, della quale peraltro allora si parlava poco, già da qualche anno prima, e quindi sono stati 5 anni di Alzheimer conclamato, molto aiutato dalle strutture modenesi che mettevano a disposizione ottimi medici e ottime possibilità, e quindi di questo mi sono avvalso, ma è stata un'esperienza terribile. Che ha condizionato molto anche tra l'altro la sua opera letteraria negli anni successivi. Nicoletta. Professor Bertoni, se lei dovesse dare un consiglio, fare una raccomandazione oppure un pensiero di incoraggiamento alle persone che proprio in questo periodo hanno ricevuto per il loro familiare una diagnosi di Alzheimer, che cosa gli direbbe? Ma di avere molta pazienza, di sapere dall'inizio che si deve rinunciare alla propria vita, ai ritmi di vita. Io consideri che sono figlio unico, quindi a un certo punto ho avvertito la responsabilità di questo fatto, anche se non avevo un rapporto di particolare familiarità o confidenza con mio padre. Quindi mettersi un po' a loro disposizione, sapere che la propria vita per quel tempo ne esce comunque sconvolta, e quindi non essere mai affermativi o impositivi, ma cercare di accettare il modo in cui sono e limitare i danni. Lei riusciva ad esserlo non impositivo? Sì, ho imparato a esserlo, è stata una lunga fatica che mi ha piuttosto devastato anche sul piano interiore. Il fatto a cui lei faceva riferimento, dopo quella diagnosi, io che non avevo mai parlato in poesia dei miei genitori, in particolare di mio padre, ho scritto solo di quello per alcuni anni, e quindi capisce come in una dimensione interiore io mi sia calato in questa malattia e ne sia per certi aspetti stato poi vittima anch'io, perché lì è una memoria individuale che viene distrutta, sono dei cortocircuiti anche i più ovvi che vengono inceneriti, e naturalmente riguarda anche te, perché riguarda il tuo DNA, riguarda il tuo albero genealogico, e quindi ovviamente il mio pensiero anche oggi è di aspettare quando avrò anche io i primi sintomi di quella malattia, anche se non è affatto accertato che sia genetica, ho speranze, eccetera, eccetera, però uno ci pensa un bel po'. Grazie al professor Alberto Bertoni, le auguriamo una buona giornata. Buon lavoro. Grazie a loro. Grazie. Buongiorno. Sono passati troppi anni senza che abbia avvertito la necessità di riprendere questo diario. Tutto è cambiato da allora, persino la mia calligrafia. Un diario non serve quando sei felice. E fino a poche settimane fa, Lino ed io lo eravamo. Ma da alcuni mesi qualcosa in lui sta cambiando. Lino, ma dov'eri? Qui, mi hai mosso da qui. Sono due ore che ti cerco. Ero qui. Lino, è il tuo compleanno. Avevamo organizzato una cena. Guarda che non me l'avevi mica detto, sai. Come non te l'ho detto? Te l'ho ricordato anche stamattina. Abbiamo ascoltato un frammento da Una sconfinata giovinezza di Pupi Avati, che abbiamo avuto il piacere di avere anche ospite nostro insieme a Bentivoglio. Si è sempre impreparati di fronte ad un compito così impegnativo che richiede di riprogrammare la vita. Il malato, un tempo genitore, capace di cura e di sostegno, diventa bambino, bisognoso di cura, di tanta attenzione. Ed è così che i figli, come ci ha ricordato il professor Bertoni, o il coniuge, sentono il dolore della rinuncia dell'identità, del proprio care, devono far leva su tutte le proprie capacità di far fronte al cambiamento. È una situazione complessa, una situazione faticosa sul piano fisico e psicologico, perché l'Alzheimer è una malattia difficile, difficile da accettare, da vedere, da sopportare, da vivere. Una malattia crudele, è una malattia che spoglia la sua vittima della sua identità, che trascina la famija in un inferno. Arrendersi? Mai. Ma cosa fare? Concretamente, su quale forze possiamo contare? Vogliamo parlarne proprio oggi. Esatto, in questa puntata che vuole essere un'occasione per fornire delle informazioni di base sulla patologia, perché ci sono anche molte persone che non ne sanno nulla. Parleremo dei sintomi premonitori, degli esami per arrivare alla diagnosi, di terapia, di ricerca, ma al centro metteremo il malato e la sua famiglia e naturalmente ci dedicheremo anche per una parte di questo programma anche ai costi sociali, personali ed economici appunto di questo problema. Allora, vi vogliamo presentare i nostri ospiti che oggi ci daranno una mano e sono naturalmente a disposizione al nostro numero verde 800 24 00 24. Vogliamo anche dare voce a tutte le persone che in questa fase della loro vita devono sostenere e accompagnare un familiare affetto da una malattia cronica degenerativa. Abbiamo in linea con noi il professor Paolo Maria Rossini, direttore dell'Istituto di Neurologia Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Qui con noi Gabriella Salvini Porro, presidente di Federazione Alzheimer Italia, benvenuta, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, e in collegamento telefonico abbiamo la presidente nazionale dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, Patrizia Spadin, che salutiamo, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Noi viviamo più a lungo, professore, però gli anni di vita che abbiamo guadagnato ci portano a fare i conti con l'aumento di malattie che hanno bisogno anche di tempo per svilupparsi. Malattie che sono spesso croniche e ingravescenti, come le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, di cui fa parte la malattia di Alzheimer, malattia che è oggetto di studio da parte dei ricercatori che sono da tanto tempo impegnati a trovare non solo delle terapie per contrastare l'evoluzione della malattia, ma anche degli esami capaci di individuare le persone a rischio di sviluppare una demenza, quindi intercettando queste persone prima che i sintomi si manifestino. Professor Rossini, un mese fa all'incirca i media hanno dato una grande evidenza al test messo a punto dagli esperti della Georgetown University, che attraverso un semplice prelievo di sangue permetterebbe di diagnosticare con un'accuratezza del 90% l'arrivo della patologia nell'arco dei 3 anni, misurando proprio i livelli di alcuni grassi. Ma in questi giorni l'attenzione si sta concentrando su un test made in Italy, messo a punto dal suo gruppo di ricerca, che vede riuniti 3 grossi centri, il Fate Bene Fratelli di Roma e di Brescia, il Policlinico Gemelli. Questo test misura la concentrazione di rame libero nel sangue che può penetrare e danneggiare il cervello. Più alta la concentrazione di rame libero, più c'è il rischio di sviluppare l'Alzheimer. Professor Rossini, perché vi siete messi sulle tracce del rame? Un'elevata concentrazione di rame è presente solo nell'Alzheimer o anche in altre patologie, quasi a indicare uno stato infiammatorio? Dunque, allora, intanto diciamo che questo risultato è un punto intermedio, non lo consideriamo un punto di arrivo, e comunque arriva dopo circa 15 anni di attività di ricerca e almeno una settantina di articoli pubblicati dal nostro gruppo, centinaia di articoli a livello internazionale che stanno mettendo sotto osservazione speciale questo possibile killer, il rame libero, che inizialmente veniva accostato insieme ad altri metalli pesanti nella congeria delle possibili, appunto, possibili cause e concause di questa malattia, insieme allo zinco, insieme al ferro, insieme all'alluminio. Poi piano piano negli anni ha trovato una sua legittimazione, anzi una sua specificità, fino ad arrivare ad una serie di evidenze sperimentali dell'ultimo anno che ne dimostrano l'elevatissima concentrazione di questa frazione che lei ha correttamente definito di rame libero a livello dei capillari della corteccia, quindi nella zona che porta il sangue, che porta i nutrimenti, ma che anche riceve diciamo, tutti i metaboliti e cataboliti, quindi tutta la parte di scarico del materiale utilizzato dal cervello, si concentra lì e probabilmente produce tutta una serie di azioni che facilitano la formazione prima e l'accumulo poi dei frammenti di beta-amiloide, che sono probabilmente l'effettore finale, il killer definitivo, quello che tira il grilletto alla fine insieme probabilmente alla proteina tau, ma che a monte ha tutta una serie di fiancheggiatori che gli permettono di entrare in azione. Il rame libero, almeno in una quota importante di malati, potrebbe essere uno di questi fiancheggiatori. Insomma, c'è questa situazione, Nicoletta, non so se sei d'accordo, un po' paradossale, per le famiglie che vengono colpite da questo problema avvertono una solitudine incredibile, dall'altro lato la ricerca che invece sta facendo passi da gigante per fare centro, per individuare appunto l'origine di questo dramma. La clinica e la ricerca possono non solo garantire una qualità di vita migliore al malato, ai suoi familiari, ma anche ridurre il costo di questa patologia che è molto elevato. C'è un documento che aggiorna quotidianamente la situazione, l'impatto globale della demenza 2013-2050, ed è appunto proprio un documento che ci racconta un po' qual è lo stato, la diffusione dell'Alzheimer nel mondo. Le nuove stime avvertono di un aumento del 17% rispetto al 2009, mostrano che il numero di persone affette da demenza aumenterà a 135 milioni entro il 2050. L'attuale costo economico della demenza è 604 miliardi di dollari l'anno. Questi costi aumenteranno in proporzione alla diffusione della malattia, in particolare nei paesi a basso e medio reddito. Ma anche nel nostro paese la situazione è critica, il sistema dei servizi pubblici spesso non è in grado di fornire servizi adeguati e quindi tutto il carico è sulle spalle delle famiglie che evidentemente faticano a sostenere un impegno di cura così forte. E anche per questo motivo si rende sempre più necessario garantire un supporto efficace a quelli che vengono definiti i caregiver dei soggetti affetti da Alzheimer. Allora un giro di tavolo per commentare un po' questi dati e questo punto di vista con Patrizia Spadin e con Gabriella Rossi Salvini Porro. Qui mi sto un po' confondendo con la... Posso fare solo un commento e poi mi taccio per la parte... Professor Rossini, ci mancherebbe. Ecco, io credo che noi dovremmo un attimo concentrarci sul motivo di queste cifre così in crescita, molto vistoso. Perché una spiegazione sicuramente è il fatto che la popolazione invecchia, ma probabilmente non basta. Il motivo che io spesso richiamo a me stesso è il seguente: la diagnosi di demenza è ancora una diagnosi funzionale, cioè noi diciamo che esiste un'asticella che se l'anziano non è in grado di saltare lo mette in uno spazio che è definito di insufficienza di capacità cognitiva. Sì. Questa asticella è definita da tutte le nozioni che una persona anziana deve, un bagaglio di nozioni che deve essere in grado di e capace di gestire per poter essere autosufficiente da un punto di vista del lavoro, delle relazioni sociali, dell'affettività, eccetera. Ora, la mia impressione è che questa asticella noi inconsapevolmente la stiamo anno dopo anno alzando. È sempre più difficile per un anziano di oggi rispetto ad un anziano di un secolo fa mantenersi autosufficiente, perché le quantità di nozioni che gli sono necessarie per rimanere autosufficiente sono enormemente superiori a quelle di una persona anziana di un secolo fa. Pensiamo soltanto ai PIN che ci dobbiamo ricordare per azionare il cellulare piuttosto che aprire l'appartamento, il sistema di sicurezza, eccetera. Allora, o noi cominciamo a pensare ad una tecnologia che aiuta e non mette in crisi la persona anziana, oppure questa asticella è destinata ad alzarsi sempre di più e quindi noi avremo frange progressivamente crescenti di persone che rientrano nella fascia della non autosufficienza cognitiva, ma semplicemente perché concorriamo a crearle, certamente certo, perché abbiamo più persone anziane e questo è un bene, ma dall'altro perché creiamo un mondo e un contesto in cui li caliamo che è sempre più difficile da gestire. Quasi ostile addirittura. Allora. Sì, perché il mondo va troppo di corsa, non teniamo più il passo e con l'età che avanza diventa sempre più difficile. Gabriella Salvini Porro. Prima di tutto una premessa. Io vi parlo qui non solo da presidente della federazione, ma da familiare, per cui so quello di cui stiamo parlando, l'ho conosciuto dal di dentro e quindi capisco la difficoltà. Io dico sempre, è una malattia intollerabile, non difficile, ma insopportabile, perché non si riesce a capire, il familiare non riesce a capire molto spesso che cosa sta succedendo. Noi sentiamo tanti familiari che ci dicono, ma lo fa apposta, ma non lo fa apposta. Eppure sembra, la persona è sempre fisicamente... È uguale. Uguale, però non il suo di dentro non c'è più. Quali sono le criticità? Banalmente, io lo dicevo prima, è una cosa banale, le informazioni. Sembra automatica, è giusto, ha detto il professor Rossini, la tecnologia non aiuta delle persone che non riescono ad imparare più cose nuove. Ma anche i familiari sono sconcertati, non sanno dove andare, non sanno a chi riferirsi, non sanno cosa fare, come comportarsi con il malato. Quindi una delle prime criticità è proprio la questa. Relazione. Mm-hmm. Andiamo a sentire un commento anche sui presupposti che abbiamo creato su questo tema fino a questo momento con Patrizia Spadin, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. Anche questa associazione peraltro ha un numero verde come il nostro, al quale arrivano ogni giorno moltissime richieste di aiuto, no? Proprio questa ricerca di informazioni che la sua collega ci indicava poco fa viene ricercata quando si intercettano i canali giusti, anche attraverso evidentemente il vostro. Presidente. Sì, certo, il numero verde funziona da 17 anni e risponde direi a 360 gradi sulla malattia di Alzheimer. È un piccolo aiuto che richiede, credetemi, un grande sforzo, è un piccolo aiuto per le famiglie, soprattutto per quelle famiglie che non hanno intorno alcuna rete che le possa supportare. Mi permetto di... salutando il professor Rossini, che conosco ormai da tanti anni, di fargli sottolineare un aspetto dei test che oggi vengono giustamente pubblicizzati e che sono predittivi, direi, della malattia di Alzheimer. Rilevo un aspetto etico che secondo me vale la pena di approfondire su questi test, perché tanti le possibilità di cura di oggi della malattia, direi che è un po' critico il fatto di poter dire a una persona che nell'arco dei prossimi anni potrebbe manifestare questo tipo di malattia. Una delle criticità che capitano in una famiglia quando viene diagnosticato l'Alzheimer è lo sconcerto, sì, è anche l'angoscia, la disperazione per una diagnosi che si sa infausta, in quanto non esistono possibilità di guarigione, esistono possibilità di cura oggi, data dai farmaci, data dai supporti, data dalle terapie non farmacologiche, data da una rete che purtroppo non c'è, ma non c'è possibilità di guarigione e si sa quale potrà essere lo sviluppo della malattia e della patologia all'interno del nucleo familiare, destabilizzante non solo per il malato ma per tutto il nucleo familiare. Parlavate di costi prima, sì. I costi sono alti da un punto di vista psicologico e affettivo, sono alti da un punto di vista pratico, sono alti anche e soprattutto perché oggi c'è la crisi. Noi segnaliamo costantemente alle amministrazioni e alle istituzioni che si occupano di Alzheimer che i costi dell'assistenza, alti di per sé, alti e valutati alti da molti anni in Italia, in realtà oggi sono aggravati dal fatto che spesso i familiari che assistono rimangono senza lavoro. È evidente. Quindi è il cane che si morde la coda. È un gorgo da cui francamente non si vede una via d'uscita rapida, certo, e veloce. Perché... Ci torniamo fra qualche presidente, fra qualche istante. Vedo tanti messaggi, Nicoletta, sì, tante telefonate. Infatti abbiamo Maria che ci chiama da Bologna, Samuele da Napoli, leggeremo naturalmente anche i messaggi che arrivano numerosi al 349-238-6666. Maria, buongiorno. Buongiorno, cerco di essere veloce perché ho capito che ci sono tante richieste. Grazie. Allora, in breve, non c'è nessun tipo di rete, non c'è nessun tipo d'aiuto da parte di quelli che dovrebbero essere deputati a farlo. Quindi parliamo di ASL, di Servizi Sanitari Nazionali e di Comune per quello che compete loro. Ti mettono in mano una diagnosi di un parente che appunto ha questo problema, che ha tantissimi aspetti, tra l'altro anche di tipo psicotico, per cui non c'è solo un arretramento di tutta la parte del deterioramento cognitivo, ma ci sono anche persone come mia madre che hanno avuto manifestazioni psicotiche, quindi di pazzia vera e propria, ti mettono in mano questa diagnosi e basta, dopodiché tu sei completamente isolato, sconcertato e senza mezzi per trovare l'assistenza, quindi parliamo di badanti, non si sa dove reperire, recepire queste badanti, hai un mercato così sotto non ben chiaro in cui ci sono queste persone straniere che sono tutte purtroppo impreparate, non hanno formazione, non hanno competenze, non hanno conoscenza di questa cosa. Non c'è nessun tipo d'aiuto da parte degli infermieri domiciliari, perché sono pochi, fanno quello che possono, però se devi fare un clistere non sai da che parte cominciare. Quindi Maria denuncia una situazione molto critica, ci sono pareri in questo caso discordanti che derivano dall'esperienza personale. Alcuni dei nostri ascoltatori dicono appunto: la badante della mia mamma è stato un angelo, mi ha salvato, è stata una ventata veramente di positività e quindi di coraggio, anche di energia. Infermieri che ci scrivono, infermieri di assistenza domiciliare, che ci dicono che loro sanno veramente che cosa vuol dire per le famiglie avere un paziente di Alzheimer. 800 24 00 24, noi oggi vogliamo proprio mettere a confronto le varie esperienze anche di chi non ha necessariamente un familiare malato di Alzheimer, ma sta accompagnando un familiare con una malattia cronica e degenerativa, e vogliamo anche però, oltre che a denunciare tutte le cose che non vanno, cercare di dare ai nostri ascoltatori anche indicazioni, perché ci sono anche cose che funzionano e che a volte non conosciamo. Quindi la puntata di oggi ha proprio l'obiettivo di fare chiarezza, di denunciare. Il professor Rossini ci aggiornerà sugli sviluppi che la ricerca ha fatto anche per le terapie, ma soprattutto vorremmo dare anche indicazioni. Se le avete anche voi, chiamateci, facciamo come si dice rete. Cuore e denari. Mia mamma, la mia mamma, è malata da 5 anni e da poco più di 2 anni è ricoverata in una struttura adeguata. Per me è uno strazio tutte le volte che vado da lei. Ho una voglia matta di vederla e quando sono là ho una voglia matta di scappare. Forse il mio subconscio non accetta la situazione, non lo so, ma mi fa star male. A Natale mi hanno chiesto cosa mi sarebbe piaciuto ricevere. Ho risposto nulla, ma un regalo l'avrei voluto. Che la mia mamma ritornasse sana almeno per 3 giorni. Il primo per ringraziarla di tutti i sacrifici che ha fatto per me. Il secondo per scusarmi di tutte le volte che l'ho fatta soffrire. Il terzo giorno per dirle tutto il bene che le voglio e che raramente le ho dimostrato. Queste e molte altre testimonianze sono riportate nella sezione intitolata La voce di chi è vicino al malato del sito Alzheimer Italia. Professor Rossini, abbiamo dato inizio a questa nostra trasmissione citando questo risultato della ricerca di questi tre gruppi, tre centri, il Fate Bene Fratelli di Brescia e di Roma e il Policlinico Gemelli, per questo test che rileva la presenza di rame libero. La dottoressa Spadin diceva giustamente, ma a questo punto che cosa serve sapere in anticipo di avere la possibilità di essere, di correre il rischio di ammalarsi di Alzheimer? Cosa serve oggi? E molti lo chiedono, e dei nostri ascoltatori, ma altrettanti invece vogliono sapere, esatto, esattamente il contrario. Cosa servono questi test oggi, quando la malattia sappiamo che non è curabile? Allora, intanto mi lasci dire che i risultati di questa ricerca sono frutto di una giovane ricercatrice italiana, che è la dottoressa Rosanna Squitti, una neurobiologa che per fortuna ci siamo tenuti, che lavora qui e che fa parte di quell'esercito di giovani meravigliosi che questo Stato guarda in modo molto disattento. Non è un cervello in fuga, in sostanza. Non è un cervello in fuga, speriamo che non lo sia, perché siamo sempre tutti a rischio. Io oramai il mio tempo l'ho fatto, ma molti giovani che sono promettenti sono in difficoltà. Un cervello italiano che ha mantenuto il cuore in Italia, diciamo così. Assolutamente sì. Intanto saluto e ringrazio il presidente Spadin per la domanda, perché questa è una domanda importantissima, per tante implicazioni, non ultima che arriva come una bomba laddove il test dovesse essere positivo, effettuato su una persona che è sostanzialmente sana e normale, chiaramente è un qualcosa che può e in qualche modo gli cambia la vita, a lui e a chi vive con lui o con lei. Però ci sono due motivi ed un terzo ulteriore per la ricerca nostra per portare avanti questi tipi di test. Il primo motivo è che comunque già oggi, con i pochi farmaci a disposizione, se questi vengono iniziati in fasi precocissime, danno risultati migliori e più a lungo in termini di contrasto e di rallentamento dell'evoluzione naturale della malattia. Parlo di farmaci, parlo di stili di vita, per esempio l'importanza dell'attività fisica quotidiana e l'importanza dell'attività cognitiva quotidiana, quindi dell'allenamento mentale quotidiano. Il secondo motivo è quello che qualunque sarà il farmaco definitivo o il cocktail di farmaci definitivi, se questo viene iniziato quando la malattia è già evidente, i risultati saranno sempre modesti, perché il nostro cervello è in grado di resistere all'aggressione della malattia anche per anni, e quindi quando la malattia si manifesta ci sono già stati danni molto molto estesi, per cui la possibilità di recupero è comunque limitata, e quindi l'importanza di intercettare le persone quando la malattia è già in azione ma i sintomi non sono ancora diventati evidenti serve proprio a far sì che si possa spegnere l'incendio prima che abbia effettuato danni troppo estesi e troppo devastanti. E la terza motivazione, che è quella che riguarda in modo particolare noi, è che quasi tutti i test fino ad oggi messi a punto sono test predittivi ma non modificabili, incluso quell'americano dosa che cosa? Le scorie che i neuroni morendo immettono nel circolo sanguigno, e quindi quando uno fa il test viene a sapere che ci sono dei neuroni che muoiono, e quindi si fa in qualche modo la diagnosi. I test genetici, uno sa che è portatore di un rischio genetico che favorisce la malattia, ma purtroppo la genetica non ce la possiamo in qualche modo né scegliere né allo stato attuale la possiamo modificare. Il rame o ricerche correlate a questo tipo di indagini è un elemento modificabile, cioè la frazione di rame libero, laddove dovesse risultare eccessiva, può essere modificata. E noi sappiamo per esempio oggi che nella popolazione generale ci sono dei buoni e dei cattivi metabolizzatori di rame. Tutti noi mangiamo e beviamo alimenti dentro i quali c'è del rame, ma non sappiamo se geneticamente li metabolizziamo bene o li metabolizziamo male. La frazione che metabolizza male, a sua insaputa, per tutta la vita, immette nel circolo una piccola quantità di rame libero che comincia a far danni. Ora, saperlo per tempo significa poter intervenire con diete specifiche, con integratori e poi eventualmente con cosiddetti farmaci chelanti, cioè che legano il rame libero e lo portano via dal corpo, per almeno ridurre o eliminare questo problema, fattore di rischio. Quindi diciamo che l'importanza di questo tipo di approccio è anche di identificare dei fattori eventualmente modificabili, perché altrimenti certamente il rischio di fare un buco nell'acqua poi rimane. Professore, rimane la domanda: chi dovrebbe sottoporsi a questi esami, a questi test? Chi ha un familiare, i due familiari, perché, oppure a partire da una certa età? Allora, guardi, naturalmente i test, parliamo di test in generale, quindi esistono dei test che sono più o meno invasivi e quindi bisogna considerare l'invasività del test. Ovviamente una puntura lombare che porta a definire alcune sostanze nel liquido che circola nel cervello è un test molto invasivo, improponibile perché può avere una serie di effetti collaterali sulla popolazione generale. Un prelievo di sangue è tutto un altro tipo di discorso. Parliamo di costi, perché tutti i test hanno dei costi, quindi se per esempio fare una PET può essere utile da un punto di vista della diagnosi precoce, è impensabile che però si possa sottoporre tutta la popolazione. Un programma di screening, certo. Perché avrebbe dei costi che sono, diciamo, inaccettabili per qualsiasi sistema sanitario. Chi dovrebbe farlo? Allora, se noi avessimo a disposizione un test perfetto, che ancora non c'è, cioè un test che costa poco, che non è invasivo, quindi non può provocare dei danni e che ha un'altissima sensibilità e specificità, diciamo vicino al 100%, un test che non c'è. Se noi l'avessimo, a chi lo dovremmo rivolgere? Io consiglio sempre tre popolazioni. Le fasi precocissime di malattia, quando ancora i sintomi sono lievi, ma la malattia è già stata diagnosticata, siamo nelle fasi iniziali e serve avere una stadiazione, come si fa con tante altre malattie, per poter poi vedere se la curva di peggioramento è molto rapida oppure più lenta, perché non tutti i malati, come si sa, poi hanno lo stesso tipo di gradualità di peggioramento. Quei soggetti che sono nella fase di dimenticanze importanti o di deficit cognitivi, che gli inglesi definiscono mild cognitive impairment, ancora non è una malattia vera e propria, è l'anticamera della malattia per almeno metà di questi soggetti, quindi è una popolazione molto ampia in cui il rischio è enormemente più elevato rispetto alla popolazione generale, anche loro sono dei candidati. E poi certamente sì, chi ha una forte familiarità per questa malattia, consanguinei che si sono ammalati nelle generazioni precedenti, beh, è una persona su cui probabilmente un po' di attenzione in più va concentrata. Ci fermiamo, 800 24 00 24, insieme naturalmente alla donna di Denari faremo anche i conti, una malattia che costa, abbiamo detto, in termini psicologici, ma non solo. Esatto, andiamo, poi analizzeremo anche il caso dell'ascoltatrice di Bologna che si è trovata completamente in grandissima difficoltà, perché lei dice: io non ho trovato nessuno che mi potesse aiutare nella maniera efficace, in realtà poi le strutture esistono, assistenza domiciliare e quant'altro, faremo magari un piccolo elenco. Abbiamo naturalmente anche la dottoressa Spadin e la dottoressa Salvini, esatto, Porro, che ci racconteranno come le associazioni dei malati e dei familiari vengono incontro alle famiglie, e Guglielmo da Napoli, Bruna dalla provincia di Milano e Samuele da Napoli. Chiamateci, confrontiamoci e cerchiamo di trovare una soluzione al problema di molte famiglie. Cuore e denari. Vedi, la vita è una piuma, si balla e si trema, amore mio, non sono per niente vicino a un addio. Te la ricordi, Deborah? Sì. La colonna sonora di Braccialetti Rossi. Una serie che ha avuto un grandissimo successo. Molto. Sì, è vero. Nicola, uno degli adulti protagonisti, ha l'Alzheimer. Quindi è un tema del quale si può parlare nella cinematografia, in televisione, e però poi le famiglie non si sentono molto consolate da questo fatto, non molto supportate. Abbiamo sentito la testimonianza dell'ascoltatrice di Bologna, che ci ha colpito molto. Io devo dirvi che mi ha colpito soprattutto perché ha detto: vivo a Bologna. Qua non stiamo parlando di una città che non può essere considerata una città fornita dal punto di vista dei servizi per problemi di questo tipo che vivono molte famiglie. Gabriella Salvini Porro, che ne pensa di quello che ha sentito? Questo mi lascia sconcertata, perché la regione Emilia Romagna ha un piano demenze piuttosto articolato. Il problema grave e grosso è che sono tanti malati. Sono pochi i soldi. Ed è questo il motivo per cui parlavo dell'informazione. Noi abbiamo fatto un censimento su queste informazioni sulla regione Lombardia, proprio per indirizzare le persone nel posto giusto, sì, al momento giusto. A Bologna, ecco, anche noi abbiamo un telefono che abbiamo chiamato, sì, Pronto Alzheimer da 20 anni, e pensate che abbiamo raggiunto circa 140.000 contatti, richieste di familiari, per cui ne sentiamo di tutte e da tutte le parti d'Italia. Ci sono regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria, che hanno delle però non per tutti, e sono un po' localizzati a macchia di leopardo. E poi è chiaro che magari di fronte al primo no già ci si sente un po' persi, no? Perché si vorrebbe un aiuto immediato quando non, certo, si ha la consapevolezza, la capacità, la lucidità di capire come va gestito un problema immediatamente, immagino, dopo la diagnosi. A proposito delle reti assistenziali, sentiamo un po' Bruna da Milano. Nicoletta, se sei d'accordo, perché volentieri. Qua parliamo appunto di regioni che hanno, come dire, una capacità di erogare e mettere a disposizione questi servizi molto alte, ma l'Italia è fatta di tante regioni e di tante realtà. Bruna, buongiorno. Sì, buongiorno. Un medico, io peraltro, faccio, sì, un medico di famiglia, sì, nella provincia di Milano da 30 anni, perché sono una vecchia signora. E la realtà è drammatica. Nel senso che le strutture ci sono, c'è un'ottima rete, ma è tutto a pagamento, cioè se le persone, la familiari possono permettersi, ci sono i diurni per gli anziani, sì, che sono degli asili in cui si portano queste persone con un iniziale decadimento e che fanno benissimo queste persone perché gli aiutano a mantenere una socialità per più tempo, un'autonomia per più tempo, ma sono a pagamento. Ci sono poi le case di ricovero per anziani che fanno i day hospital per anziani, ma sono a pagamento. Ci sono i lungodegenti per anziani con l'Alzheimer, ma sono a pagamento. Cioè, la struttura pubblica non dà nulla. Esiste una rete nei pazienti cronici che sono tumorali e che sta cominciando a funzionare bene, perché durano 3 mesi, si riesce a sopportarle. Tutte le patologie cronico-degenerative sono assolutamente a carico dei familiari, con l'aggravante che mentre lei è una persona che ha avuto un ictus o che ha un decadimento globale ma è cognitivamente normale, capisce in parte, perché poi subentra un egoismo strutturale in tutte le persone che stanno male, che perdono le autonomie, ma capisce le necessità dell'adulto giovane che ha la vita, che ha la famiglia, che ha i nipotini, tutto questo. L'Alzheimer no, l'Alzheimer non capisce niente, l'Alzheimer è una persona incapace, per cui ha solo pretese, ha solo necessità, ha solo richieste, devi litigare per lavarlo, litigare per farlo mangiare, litigare per non farlo uscire, litigare per farlo uscire. Ecco, questa è la situazione. Grazie Bruna. E la soluzione potrebbe esserci strutturata, secondo me. Si buttano tanti soldi in cose molto più inutili. Grazie, buongiorno. Bruna, non apriamo questo spaccato dello spreco veramente dei soldi pubblici. Che... Professor Rossini, ci aiuta lei con un commento? Perché la situazione raccontata dai familiari, anche da un suo collega medico di famiglia, certo, è brutta, eh? Io umilmente porto un contributo con piacere, specificando però che questa è una malattia che dura molto, come è stato detto, dalla diagnosi oggi passano tranquillamente 12-15 anni di sopravvivenza, ed è una malattia che ha un decorso progressivo in cui l'ospedale, quindi figure come le mie, hanno un ruolo soltanto nelle fasi iniziali e poi per motivi, diciamo, intercorrenti, se c'è una polmonite, se c'è un'infezione, una cistite, ma la parte medica è la parte di diagnosi sostanzialmente, il resto è una malattia che deve essere sostanzialmente gestita, ed è una malattia che cambia pelle, quindi pone delle domande a cui bisogna dare delle risposte che cambiano il secondo, il terzo, il quinto, il decimo anno della sua evoluzione. Quindi serve un modello, diceva prima la Presidente Porro che ci sono regioni che si sono dotate di modelli e quindi di piani di intervento che vanno dalla diagnosi al territorio, al domicilio, a tutta una serie di altri interventi, poi qui è da vedere se funzionano o meno, ma perlomeno c'è stato uno sforzo culturale In molti altri posti questo è mancato totalmente e comunque manca un approccio globale. Qui secondo me su emergenze di questo tipo lo Stato centrale dovrebbe imporre un intervento ed un controllo ed un monitoraggio diverso. Dal momento in cui viene fatta questa diagnosi, la persona e la sua famiglia in qualche modo dovrebbero essere accompagnate ed avere delle figure, dei centri, delle realtà di riferimento a cui di volta in volta riferirsi quando servono cose, perché questa è una malattia in cui, ripeto, serve il medico, ma serve lo psicologo, ma serve l'infermiere, ma serve il riabilitatore, serve anche quello che serve può dare un team che se ne prenda cura e che aiuti la famiglia ad assistere al malato, più figure professionali. Esattamente, è veramente un tipico esempio di un approccio integrato attorno ad un problema che è poi unico. Una presa in carico globale, un commento anche da parte della Presidente Spadin, perché anche AIMA fa molte indagini e ho letto la vostra più recente dove monitorate quelli che sono i servizi che vengono indicati come i più utili. Si trovano chiaramente le unità di valutazione Alzheimer, i centri diurni, i nuclei Alzheimer, l'assistenza domiciliare integrata, quella domiciliare socio assistenziale, ma quelli che invece sarebbero da potenziare, Presidente Spadin, che cosa dicono le persone, le famiglie che si rivolgono a voi? Sottolineerei, prima di passare alla risposta alla sua domanda, sottolineerei un aspetto. È stato fatto riferimento ai piani di alcune regioni, ai piani delle demenze dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Liguria, eccetera. In realtà solo oggi, con colpevole ritardo, però ci siamo arrivati a dotarci di un piano nazionale per le demenze. C'è stato a Londra un G8 delle demenze che ha dato alcuni spunti di riflessione che il nostro paese deve per forza recepire, perché siamo uno degli ultimi paesi europei ad arrivare su questo tema, come nazione dico. In realtà le famiglie hanno bisogno di quella presa in carico globale a cui faceva riferimento professor Rossini, con un aspetto che è ancora troppo sottovalutato, e cioè quello della necessità della specialistica del territorio a disposizione delle famiglie, perché non possiamo dimenticare che l'Alzheimer è cronico, è degenerativo, eccetera, ma è prima di tutto una malattia, per cui ai bisogni assistenziali dei pazienti e dei familiari si sommano dei bisogni clinici a cui la medicina deve dare una risposta. Ed è vero che oggi i centri esperti sono le unità valutative Alzheimer, che sono poco distribuite sul territorio, che hanno delle grosse carenze di risorse investite e quindi possono dare una risposta ancora parziale ai bisogni di diagnosi, di piani terapeutici ai malati. Presidente Spadin, le chiedo pazienza perché dobbiamo andare a sentire il giornale radio, la riprendiamo subito dopo. Cuore e denari. Ha il talento della madre. Ha la bellezza della madre, Richard. E se avesse la malattia della madre? Alice era giovane quando è cominciata. Ogni volta che Meredith dimentica le chiavi o mi chiede che giorno è, io... Quando quel milione finirà, altri investitori mi daranno fondi per la stessa ragione per cui io darò tutto per il trial. Perché hanno il padre con l'Alzheimer, una moglie... Ed eccoci tornati insieme, stiamo parlando di Alzheimer, siamo partiti da un test, praticamente scoperto da un team di ricercatori tutti italiani che misura il rame libero presente nel nostro organismo, perché è un fattore che può in qualche modo predire, professor Rossini, valutare, è giusto, il rischio di sviluppare Alzheimer. Viene triplicato questo rischio. Ma professore, torniamo a noi, alla diagnosi che arriva sempre come un fulmine al ciel sereno, in modo da poter anche rispondere ai tanti ascoltatori che ci chiedono di capire come arrivare precocemente ad una diagnosi. Ci sono dei segnali, dei sintomi che sono spesso sottovalutati dal paziente e dagli stessi familiari. A che cosa bisogna fare attenzione? Quali sono le cose che non bisogna trascurare, professor Rossini? Ma sull'aspetto della memoria credo che ci sia oramai abbastanza così interesse ed attenzione e consapevolezza un po' da parte di tutti, per cui è chiaro che se i momenti di smemoratezza si moltiplicano e la gravità delle dimenticanze si accresce, su questo credo ci sia oggi abbastanza attenzione, anche se ancora c'è una eccessiva colpevole così lassità nel dire che ma forse è anziano, è normale che negli anziani questo avvenga, purtroppo anche da parte di molti medici. Però ci sono altri campanelli d'allarme che sono importanti e forse meno noti, che sono dei cambiamenti abbastanza repentini dell'umore, del modo di essere, del carattere di un paziente, non motivati da quelli che sono gli accadimenti, gli avvenimenti della sua vita, momenti di depressione prolungati, una perdita di interessi importante, un'apatia crescente, sono tutte cose che vanno valutate molto attentamente. Noi oggi sappiamo che molto spesso una depressione che compare in un anziano che non ha mai sofferto prima e che lo porta magari dallo psichiatra, nell'arco di un paio di anni poi invece si manifesta per quella che è, cioè un sintomo d'esordio di una demenza. Quindi bisogna tenere un pochino le antenne aperte ed attente su questi sintomi qui, che possono essere molto subdoli nel manifestarsi. C'è una testimonianza di Sonia sulla nostra pagina Facebook che ci racconta: sto vivendo questa realtà da oltre 8 anni. Per stare dietro a mia mamma, rifiutando l'inserimento in una RSA, sono persone delicate e nelle strutture spesso sono solo numeri, considera Sonia. Il decadimento psicofisico dovuto all'abuso dei tranquillanti è la norma. Da un anno ho optato per un centro diurno. È come portare un bimbo all'asilo. Lei ha le sue amicizie, è serena. Io riesco a riprendere parzialmente in mano la mia vita. Una soluzione intermedia che accontenta entrambe. Non credo, questa è una sua idea, nelle cure ma nella prevenzione, allenamento costante nel corpo e nella mente. Quindi anche il momento riabilitativo, Nicoletta, non so se sei d'accordo, credo che sia importante. È assolutamente importante, professor Rossini, ma lo chiediamo anche alle nostre amiche, alla dottoressa Spadin, alla dottoressa Salvini Porre. La riabilitazione è importante anche, professor Rossini, per recuperare il paziente, mi sembra che ci siano... L'avevo citato prima, non solo recuperare, ma anche in qualche modo, almeno in quota parte, rallentare o prevenire. L'attività fisica e l'attività mentale, si sa, sono consolidati come contrasti di questa malattia. Ci sono dati oramai più che evidenti che le persone che per tutta la vita utilizzano in modo importante il loro cervello in termini cognitivi sono maggiormente protette. È chiaro che quando la malattia è molto aggressiva si manifesta comunque, ma si sarebbe manifestata molto prima ed in modo molto più grave se la persona non avesse utilizzato in modo importante e quotidiano le sue capacità cognitive, perché aumenta i circuiti, aumenta le connessioni, col cervello diventa maggiormente plastico e quindi in grado di contrastare in modo più adeguato ed efficace la malattia che arriva. Insomma, un cervello ben allenato, un cervello protetto. Dottoressa Salvini Porro? Senz'altro la riabilitazione, se fosse possibile per tutti. Quello che io mi sento di dire alle famiglie dopo eventualmente una diagnosi: rivolgetevi alle associazioni, perché sono senz'altro quelle che maggiormente possono darvi un aiuto, prendervi per mano e quantomeno indirizzarvi a quei pochi servizi che ci sono, perché ce ne sono di servizi. Noi a Milano, per esempio, io ho appena saputo, al Trivulzio c'è un reparto per i problemi cognitivi e comportamentali, per riadattare le persone, cioè sono delle persone malate, certo, che hanno però vanno recuperate, si possono recuperare, e quindi l'associazione ti dà un po' il tessuto, no? Esatto, tutto quello che c'è, capita nel territorio circostante. Quindi anche se una persona preferisce tenere il congiunto malato in casa, avete anche la possibilità di dare informazioni su quali sono. La figura della badante mi pare molto importante per molti nuclei familiari. Siccome non sono tutte competenti, è la formazione. Noi facciamo dei corsi di formazione, però non siamo strutturati in una formazione continua. Certo. Ecco. Mm-hmm. Quindi, però, senz'altro tutte queste indicazioni le possiamo dare. E soprattutto localmente. Ecco, questo, esatto, è importante. Sì, sentiamo anche dei nostri ascoltatori che abbiamo trascurato, ma che, esatto, a cui diciamo che senza sono... pudore hanno raccontato la loro storia, ce l'hanno messa a loro, a nostra disposizione, e noi siamo e veramente... a disposizione di tutti, certo, quelli che vivono questo momento. Sono le 12:15 e adesso spazio alle vostre telefonate 800 24 00 24. Superate la barriera rosa e mettetevi anche in contatto oggi con i nostri esperti per raccontare le vostre testimonianze oppure per fare le vostre domande. Guglielmo, buongiorno da Napoli, e poi andiamo a Samuele. Guglielmo. Buongiorno. Buongiorno. Saluto tutti, in particolare Nicoletta Carboni e il professor Rossini. Io ho 81 anni, ho esercitato la professione di avvocato per 54 anni, sì, da 5 sono ormai fuori dal lavoro, però mi mantengo in allenamento cerebrale, navigando tutte le sere 3-4 ore su internet, mantengo la mia lucidità, da questo punto di vista non ho perso nulla, anche tutti i miei interessi, ho perfino ancora appetito sessuale, immaginatevi, ho un boxer col quale cammino tutte le mattine 3/4 d'ora. L'unica, perfetto, cosa, il sintomo della memoria, ho una perfetta memoria delle cose vecchie, antiche, e spesso invece poca memoria per quelle recenti, soprattutto i nomi delle persone le dimentico facilmente, pure se le incontro spesso, alcune parti del lessico. E vorrei sapere dal professore, avendo raggiunto questa età, 81 anni, in perfette condizioni, nonostante queste parziali smemorizzazioni, è utile che io faccia questo test della ricerca del rame avvocato nel sangue, io penso, oppure ormai non mi debbo più preoccupare? Avvocato, io credo che tutti noi ci metteremo la firma, ma professor Rossini, condivido vorrei essere Guglielmo a portare il suo boxer felicemente in giro, e si tenga lontano dai medici, che sta andando benissimo, non ha nessun bisogno di fare il test. Bravo all'avvocato Guglielmo, e che si consoli se non si ricorda i nomi, perché capita anche a me, Nicoletta, non ci ricordiamo mai niente di quello che facciamo oggi, domani, proprio tutto il cervello invecchia, questo è fisiologico, è normale, è evidente. La patifasia nominum fa parte dell'invecchiamento del cervello, nominum, come le articolazioni e tutto, ma siamo ancora nella normalità. Ottimo. Assolutamente. Grazie professor Rossini. Andiamo a Samuele adesso. Samuele, che mette l'accento su un problema più ampio. Sì. Senta, volevo agganciarmi solo a due interventi che sono stati fatti. Sì. C'è una signora che parla, la mia badante è stata un angelo, sì, e un'altra signora che diceva mio parente è uscito pazzo e psicotico. Sì. Non le sembra che sono due malattie diverse? Quindi non è la badante che è un angelo, ma è un vero Alzheimer, mentre l'altro... non è un Alzheimer, ma viene considerato Alzheimer, perché il problema più serio sono le demenze? Sono le demenze, non al plurale, al plurale, e soprattutto il problema serio è nel disturbo del comportamento, che lì non c'è proprio niente da fare, niente, non esistono farmaci, non esiste niente, tutti ci preoccupano. Io se dovessi avere tra le demenze sceglierei l'Alzheimer, ma non le altre, la costico basale, la fronto basale, Parkinson, dementi, quelli sono i problemi. Anche altri ascoltatori ci stanno facendo un quadro differenziato, in sostanza. Sì, sì, anche, però bisogna dire che anche nell'Alzheimer ci sono varie forme. Sì, assolutamente, i disturbi del comportamento sono presenti, sono notoriamente più disturbanti, ci sono dei farmaci che in qualche modo aiutano a controllare, e su questo l'informazione secondo me può aiutare molto, perché ci sono dei comportamenti da parte dei caregiver, familiari e non familiari, che possono aiutare a evitare di inasprire la situazione, perché sentivo la signora prima che diceva litighiamo tutti i giorni. Io porto sempre l'esempio che i familiari di un diabetico non litigano con il diabete, cioè con la malattia è inutile litigare. Quando il cervello parla attraverso comportamenti bizzarri, bisogna cercare di sfruttare in quel momento la smemoratezza e portare il paziente su altre situazioni, altri momenti, altri interessi che gli fanno dimenticare l'acuzia di quell'arrabbiatura, perché rimanere sul territorio della discussione non serve a nulla, serve solo a far agitare di più il paziente. Andiamo alla Presidente, abbiamo altre telefonate, possiamo leggere anche dei messaggi. Sì, aspettiamo le telefonate. Sì, sì, sentiamo le telefonate, intanto sentiamo. È arrivata Cristina da Parma. Sì, Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io ho 39 anni. al papà 7 anni fa è stato diagnosticato l'Alzheimer, alla madre di mio padre, la madre di mio padre ha avuto la sclerosi, l'arteriosclerosi. Mi chiedevo se mi era consigliato, poi è una domanda che mi pongo spesso, mi era consigliato di sottopormi a dei test o delle appunto analisi per capire se potevo essere un soggetto a rischio. Grazie Cristina, direi che il professor Rossini può confortarci, sì, in questo, aiutarci. Sì. Il termine di arteriosclerosi era un termine che veniva utilizzato una volta per definire le forme di demenza che si supponeva fossero di origine vascolare. Quindi diciamo che comunque probabilmente nella sua famiglia ci sono almeno 2 generazioni da parte paterna con un problema di disturbi cognitivi importanti e significativi, per cui sicuramente questo è un elemento da tenere presente. Direi che la cosa migliore è quella di magari fare una prima valutazione di test genetici per sapere se lei geneticamente è portatrice di qualcuna di quelle mutazioni che si associano alle forme familiari di demenza. Ha fatto questo, ma al di là di uno stile di vita tipo quello che dicevamo prima, di essere attivi, di utilizzare il cervello dal punto di vista cognitivo e anche fare dell'attività fisica, fino a che non compare qualche cosina di innovativo da un punto di vista dei sintomi, non farei altro. Quindi farei una testatura genetica, magari anche una valutazione del rame libero per essere certi che anche questo fattore che è modificabile non sia alterato, ma poi non farei altre cose. Professore, voglio leggere una mail che ci scrive Alessandro. Perché non viene, e ci scrive, perché non viene detto che senza medicinali si può migliorare semplicemente prendendo integratori, soprattutto di vitamina B? Perché? Perché se non usiamo farmaci non c'è business. Leggo volentieri questo messaggio di Alessandro, perché è un tema che ricorre tutte le volte in cui noi trattiamo di una malattia cronica, per cui c'è una terapia. Naturalmente c'è sempre l'ascoltatore che dice perché le terapie sono farmaci e quindi business, ma Alessandro ci dà un motivo in più per leggere la sua mail, perché parla di questi integratori di vitamina B. Quindi in 2 righe ci sono 2 spunti per il professor Rossini, prima sui farmaci e poi sul ruolo protettivo della vitamina B per il nostro cervello. Vorrei fare un commento primo generale, perché il nostro è un paese che troppo spesso cade in preda a problematiche di cure facili per problemi difficili. Penso a tutta una serie di problematiche da stamina, andando indietro verso la cura dei tumori e andando ancora indietro sul siero per curare la sclerosi multipla, eccetera. Oggi io non sono un emissario delle multinazionali per i farmaci, ho il mio stipendio ospedaliero perché sono a tempo pieno nell'università e nell'ospedale, per cui per me che si vendano tanti farmaci o 0 farmaci mi interessa solo bene del malato. Oggi la scienza medica ha delle regole per dimostrare che una qualsiasi cosa, che sia un integratore, che sia una pillola, che sia un'iniezione, è superiore a placebo, bisogna fare un trial clinico in cui si dà a quei gruppo di malati o il placebo o la sostanza che è in esame, li si segue per il periodo necessario, essendo tutti cosiddetti ciechi, cioè gli sperimentatori non sanno, né i malati sanno se prendono l'uno o l'altro, e alla fine si tirano le somme. Se il farmaco o la sostanza sperimentale è superiore, i sintomi vanno meglio o la malattia si rallenta o addirittura guarisce; se non è superiore al placebo non accade nulla. Allora, finché gli integratori, finché tutte le soluzioni che si vogliono portare non affrontano le regole del gioco in questo modo, sono tutte chiacchiere. Quindi, se gli integratori o chi per loro vogliono curare le malattie, facciano dei trial in doppio cieco come si fa per qualsiasi altra sostanza, e se sono superiori a placebo saremo tutti felicissimi di prescrivere integratori. Questo è il discorso generale. La vitamina B, come qualsiasi altro composto, è presente normalmente in una dieta libera, quindi chiunque di noi, se non ha malattie particolari, se non ha malassorbimenti particolari, assorbe con una dieta normale la quantità necessaria naturalmente di quella sostanza. Assumerne di più attraverso integratori non solo non ha nessuna evidenza scientifica alla base, ma addirittura può essere dannoso, perché noi sappiamo che ci sono malattie che derivano da un eccesso di apporto vitaminico, soprattutto da un eccesso sbilanciato di un apporto vitaminico di un certo tipo. Io sono sbalordito di fronte alla noncuranza con cui tante persone assumono integratori dentro cui c'è di tutto e di più, senza sapere esattamente a che cosa vanno a parare, dove vogliono migliorare e dove possono invece percentualmente anche peggiorare. Allora, abbiamo pochi minuti, esatto. Deborah. Un'ultima testimonianza la raccogliamo volentieri da Torino, ritorniamo un po' all'impegno delle associazioni sul territorio, poi magari facciamo fare un saluto finale a Patrizia Spadin. Pier Mario da Torino, se ce la fa, deve essere telegrafico, gentilmente, grazie, perché chiudiamo fra due minuti. Buongiorno, sì. Io volevo semplicemente condividere l'iniziativa che l'Associazione Alzheimer Piemonte porta avanti oramai da diversi anni, di dare un servizio a domicilio di operatori del benessere, quindi educatori al movimento, tipicamente approccio Traeger, per sia dare un sollievo di contatto e massaggio ai pazienti, e sia anche per insegnare ai caregivers, quindi familiari piuttosto che badanti, degli elementi di massaggio, di educazione al movimento, proprio per poter fare un lavoro quotidiano sui fruitori. Un grandissimo impegno, grazie Pier Mario e complimenti. Presidente Spadin, un ultimo commento anche da parte sua, mi rendo conto che la dobbiamo salutare tra poco, ma magari 30 secondi per darci due suggerimenti utili a chi ci sta ascoltando e chi davvero in questo momento non sa da che parte cominciare. Per chi non sa da che parte cominciare, ricordo che c'è il numero verde dell'AIMA, la linea verde Alzheimer, 800-679-679, che è a disposizione delle famiglie per tentare di orientarle. E poi sì, abbiamo l'AIMA e poi Alzheimer, certo, Italia, naturalmente, con altro numero verde che daremo. Okay. Il secondo punto, dottoressa Spadin? Il secondo punto è una richiesta di attenzione da parte delle istituzioni, anche da parte del Servizio Sanitario Nazionale, a questo problema che è davvero, come è stato chiamato, l'epidemia silente. Certo. Di questo periodo. Grazie. Allora, grazie Patrizia. Grazie. Dottoressa Salvini Porro, abbiamo anche il numero di Alzheimer 0280-9767. Naturalmente li metteremo sulla pagina su di Facebook, Cuore Denari. Sì. Grazie al nostro professor Rossini, grazie per essere stato con noi, per la sua chiarezza e la sua disponibilità. Grazie professore. Grazie. No, tra l'altro ci stanno ancora scrivendo molti ascoltatori a Cuore Denari @radio24 e noi magari faremo così, le due associazioni che abbiamo ospitato oggi, chiederemo loro di aiutarci in privato, come sempre facciamo quando la pagina ufficiale di Cuore Denari si chiude e poi quella ufficiosa si riapre nel pomeriggio. Mi piace, ufficiale e ufficiosa, a domani. Grazie. Cuore e Denari.